later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, K e Drago sono alle prese con una nuova disciplina pseudoscientifica. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Ma sempre qui bla bla bla, sto bla, bla, bla. Stai zitto un attimo niente. Che almeno se stessi zitto. Ma non si capisce, non serve a noi sta roba. Quindi non è che capisci di più di qua dentro se senti chi quello che dice. Chi te l'ha detto che non serve a noi? Per te sono messaggi motivazionali per i polli. A me sembra una... Comunque non trasmettono niente. No, comunque sono in tedesco, questo è importante. Tedesco lo dici tu? E poi perché in tedesco? Scusa, siamo perché in Germania. Si sente... Ma no, ma perché si sente che è tedesco. E poi che ne so, Drago, magari i polli sono sensibili alla seconda mutazione consonantica del germanico. Fünfte Übung, zählen und rechnen. E poi prova a pensare per bene a quello che fanno qui. Qui cosa fanno? Allevano i polli? No, qui fabbricano polli, fabbrica. È diverso. Noi cerchiamo il costruttore di questa torre di Babele. C'è un progetto, capito? E quello che succede qui dentro è solo la realizzazione di questo progetto. Non capisco. Per forza, è memetica. Memetica? Volevi dire matematica? No, non capisco. In questo matematica. Caso è memetica. Memetica. Non capisci neanche la matematica, questa è memetica. Memetica sembra un refuso. No, no. È una nuova disciplina nata da un concetto serio coniato da Richard Dawkins nel 76 in un libro, quindi non una cosa, un libro, un non libro? Un'idea così, un libro intitolato Il gene egoista. Che cosa? L'idea di Dawkins è semplice. Secondo lui esistono delle unità di trasmissione della cultura dette memi. Tutto qui. Delle... Sì. Delle unità della trasmissione. Drago, i memi sono quelle idee che una volta trasmesse da mente a mente manifestano una loro capacità di diffusione e replicazione. Sono capito? Idee. Sì, ci sono quelle forti, quindi i memi forti che hanno un'alta capacità di diffusione, e ci sono memi deboli che hanno una scarsa capacità di diffusione e replicazione. Certo, capite? Quindi qui si fabbricano i memi. I memi che faranno da tormentone per i prossimi anni, per esempio. Sì. Ogni notte qui, Drago, producono i memi che i prossimi anni vinceranno sugli altri nella competizione dei memi, la grande sfida tra memi. I memi forti contro i memi deboli, capito? No. La competizione dei memi. Ma capo, ma ho capito, ma questi memi alla fine a che cosa servono? A chi sono diretti? Sono diretti a più gente possibile, Drago, che domanda. Beh, idee allora fondamentalmente stupide, insomma. Molto fondamentalmente. Cioè, qui si fabbrica la stupidità. Siamo alla fonte del male, Drago. Oh my goodness. What's the matter? It's midnight. Sotto il mio balcone a Milano in via Monte Asolo, ogni sera ci sono due che si amano, una in trance e l'altro al macchino sul cofano, si amano. E più tardi di quanto sembra, la fabbrica di polli. Ma che ore sono? È mezzanotte, Drago. È mezzanotte, me l'hai già chiesto, è mezzanotte. Appunto, te l'ho già chiesto, era già mezzanotte. Ah, già. È mezzanotte anche adesso. Cosa vuol dire? Che qui è sempre mezzanotte. E qui è sempre mezzanotte, eh? Questo qui, questo qui chi è? Drago, è un pollo, direi. Sempre mezzanotte. Sì, un pollo parlante. Sì, parlante. Parlante. Poi non è che io parli troppo. Vabbè, però parlo. E comunque non con gli estranei. E poi dipende dalla paroxetina. Dalla? La cosa? Paroxetina. Non ho capito. Cosa la paroxetina, Drago, paroxetina. È un antidepressivo. No? Inibitore sì. selettivo della ricaptazione della serotonina. E che cosa serve? Beh, ti toglie lo sbattimento, no? Ti toglie lo sbattimento. Cioè, tu sei sbattimento, prendi la paroxetina e lo sbattimento se ne va. Io, per esempio, ho una specie di sbattimento che poi è un'ansia sociale. Ah, un'ansia sociale. Un sociopatico, un pollo sociopatico. Beh, no, che sociopatico? No, non sociopatico. È l'ansia sociale. Sì, che... una sociopatia, comunque. Sì, un po' di sociopatia c'è. Però la mia è ansia sociale e preferisco così. Sì. Molto preciso questo pollo. No, tu come ti chiami, scusa? Io mi chiamo Drago, piacere. Sì, io mi chiamo K. Vabbè, io sono in sbattimento. Ma non prendi la paroxetina, così ti passo. Beh, a parte che non è che io la prendo. Me la danno. Nel mangime. Hai capito. Ah, nel mangime mettono la solo paroxetina. Che mi sa che oggi hanno saltato il turno. Perché c'è proprio uno sbattimento di quelli. Drago, certo mica, che non è mica facile. No. Drago. Per uno che soffre di ansia sociale, ma ti rendi conto vivere qui dentro in 15 centimetri quadrati per... È un po' lo sbattimento. È un po' lo sbattimento. Sì, E prova tu. La fabbrica di polli. Vabbè, ma tu sei un romantico, pensi ancora che le idee debbano avere un valore estetico. Drago, dal punto di vista della mimetica, non è importante che un'idea sia vera o profonda o bella, è importante poco. Che si diffonda e si replichi, che abbia successo, questo è importante. Io non sono d'accordo. Vabbè, non è importante che tu non sia d'accordo, Drago. La forza di un meme, devi vederla così, la forza di un meme non deriva dalla sua verità o dalla sua bellezza. Ma voglio dire, ma questo è importante. Deriva da una serie di altri fattori che sono appunto l'oggetto di studio della mimetica. Quindi è una cosa che si crea da sola per potersi studiare. Come dai. Si spiega, Drago, l'enorme successo di alcune canzoni rispetto ad altre? Sono più orecchiabili. No, mimetica. Drago, devi dire mimetica. Come si spiega la forza di alcuni messaggi pubblicitari rispetto ad altri? Mimetica. Non mimetica, Drago, memetica. Viene male dirlo memetica. Ma devi dirlo lo stesso, vabbè, perché questa è la risposta. Memetica. Come si spiega il diffondersi di oggetti tecnologici di culto? Memetica. Memetica. Come si spiega il diffondersi di romanzi di culto? Memetica. Come si spiega il diffondersi di ideologie di successo come il nazismo? Come si spiega? La memetica risponde a queste domande individuando alcuni pulsanti mentali che sono particolarmente sensibili ad alcuni tipi di memi. Si tratta dei pulsanti istintivi. 1. Fame. 2. Sesso. 3. Protezione dei bambini. 4. Pericolo. O di pulsanti culturali, strettamente legati alle ideologie dominanti o di nicchia. Nicchia, nicchia. Se un'idea tocca alcuni pulsanti sensibili, allora si installa, si replica e si diffonde, indipendentemente da quanto sia vera, valida, profonda o bella. Ehi, bella. Torna a casa, capitano. Vabbè, però, K, se la pubblicità alla fine deve soltanto trovare i memi giusti e il criterio di questa loro giustezza è la vendibilità alla maggior parte della gente, allora diciamo che il meme ideale è un meme di basso rango, cioè proprio siamo... Te l'ho detto, Drago. Benvenuto alla fonte del male. Lucifero è una delle sue più riuscite incarnazioni. Lucifero è insieme alla P2, il grande vecchio, quelli della Uno Bianca... Roberto Calvi sulle acque limacciose del Tamigi. Cosa c'entra Roberto Calvi? Roberto Calvi c'entra sempre. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. La fabbrica di polli.